Ci sono. Tornando in studio per Radio Città Fujiko dopo il GR di Radio Popolare, come Capital Breakfast Club di venerdì, triplo appuntamento in scena. Dopo le anticipazioni di stagione che di solito riporto all'interno dei magazine del lunedì per quanto riguarda il palcoscenico di diversi teatri nella stagione 2024-2025, per quanto riguarda invece le rassegne estive, anche se con qualche giorno d'anticipo, le inseriamo all'interno in scena la rubrica che alza il sipario sui 103.1 del venerdì al Breakfast Club. Per due rassegne da sempre seguite al Breakfast Club, rispettivamente Entro Terre e In Mezzo Scorre il Fiume, abbiamo una collaborazione importante e indispensabile, che è quella di Anna Cesari per quanto riguarda la realtà di teatro, per quanto riguarda le mostre in mostra. Questa stagione con Viola Balugani abbiamo portato dei percorsi interessanti di intersezione tra arte e musica. Il mercoledì le tre puntate di Lorenzo Pauri, che hanno dato oltremodo che una sostituzione a Silvia Albertazzi, che non è stato un palliativo ma è stato indubbiamente un elemento per il voltiamo pagina indispensabile anche in questo caso. Tuttora in attività con noi, per così dire il rookie of the year, visto che parliamo del Move to Groove, Pietro Rossi per la rubrica del martedì. Abbiamo creato veramente un dream team, tornato un motivo di collaborazione, era dai tempi pre-Covid che non vi era possibilità, insomma, di avere una struttura all'interno del Breakfast Club di collaborazione con redattrici e redattori più giovani, che ringrazio immensamente per l'ottimo e oltre lavoro. Grazie ragazzi. Sia Entro Terre che dopo la pubblicità ascolteremo anche l'estesa presentazione di In Mezzo Scorre il Fiume, grazie a Anna Cesari che ha presenziato alle conferenze di incontro e per portare i contenuti di quello che è la rassegna di Entro Terre, culture e territori in festival. Oltre 100 eventi in 30 comuni, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, con oltre 200 artisti coinvolti. Allora si inizia esattamente in una sede che sono i Giardini della Rocca di Bertinoro, e qua indubbiamente se sta ascoltando Sergio Fanti si ricorderà del concerto che un paio di anni fa abbiamo ascoltato, abbiamo ammirato, di un grande e ispiratissimo Sergio Cammariere. Beh, il posto è meraviglioso, l'enogastronomia a Bertinoro non è che devo mettere particolari appunti, perché immagino che ne abbiate conoscenza con la grandissima cucina romagnola. Comunque, per quanto riguarda il 4 luglio, nella splendida cornice dei Giardini della Rocca di Bertinoro, avremo invece un altro protagonista. Ogni anno si cambia, quest'anno Vinicio Capossela. È una bella gita, poi di giovedì è perfetto, il giorno dopo è venerdì, sì, ci concediamo un giorno in più, e giovedì 4 luglio alle 21.30 nel contesto di Entro Terre ho messo l'immagine dei Giardini della Rocca di Bertinoro come copertina per quanto riguarda la puntata dedicata a questa rassegna, in quanto l'immagine di questa architettura con questo verde intorno è davvero spettacolare. Ma non fermiamoci qua, ovviamente posso citare Daniele Silvestri, Alex Britti. Abbiamo veramente una qualità di musica italiana molto importante, ma non solo. Per quanto riguarda il jazz, Paolo Fresu, Devil Quartet, Francesco Cavestri, che magari la prossima settimana, questo giovane talento, lo sentiremo perché è molto impegnato in diverse date per l'estate 2024. Carlo Maver, con il lavoro solenne che abbiamo presentato all'interno del Breakfast Club, e anche Jazz Live, grandi voci della scena pop anche internazionale. Beh, Goran Bregovic and the Wedding and Funeral Band, tanti altri come ho detto che ho già citato, anche la musica che ha un contesto, diciamo, territoriale sarà presente, come è giusto che sia, in una realtà di incontro musicale di qualità e di emozione, e non solo, anche per riscoprire un territorio, beh, da alcuni luoghi qua citati. Io mi sono soffermato a Bertinoro, ma ve ne sono diversi, ovviamente, quindi pensate tra Emilia Romagna, Toscana e Lazio, dal 4 luglio al 31 agosto, nuova rassegna 2024 Entroterre Festival. Allora sentiamo la sintesi di approfondimento che Anna ha portato con il presidente della Fondazione Entroterre, Claudio Borgianni. Oggi viene presentata la nona edizione di Entroterre Festival e siamo con Claudio Borgianni, presidente Fondazione Entroterre. Partirei dalle coordinate del festival. Allora, il festival quest'anno è dal 4 luglio al 31 agosto con più di 100 eventi, il numero esatto adesso non me lo ricordo, tra Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Gli appuntamenti, abbiamo sia i cosiddetti big, per brevità li chiamiamo così, però ci sono anche artisti locali, per esempio la Scuola di Musica Popolare Forlimpopoli. Cosa possiamo dire di questi appuntamenti e di questi artisti? Ma sicuramente un po' costellano un po' tutto questo ampio territorio artisti big come Vinicio Capossela, come Daniele Silvestri, Wanda Bardò e Cisco, che mi piacciono molto, e a tutta una serie di realtà sul territorio di grandissimo valore, che sono realtà consolidate appunto come la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, che porta avanti insomma un'attività di festival di musica popolare sul territorio, musica folk, ma anche realtà emergenti, realtà che sono state ad esempio lanciate attraverso la legge 2 della regione Emilia Romagna e che nel nostro festival trovano proprio un punto di circuitazione, essendo un festival appunto così ampio. La questione del territorio è importante per la fondazione e per il festival a maggior ragione. Questa idea della cultura che passa per la rivalutazione del territorio, per aiutare gli artisti emergenti, ma anche per la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale. Ci può parlare di questa missione della fondazione? Certo, allora innanzitutto il territorio è un punto nodale del nostro lavoro, perché entroterre, lo dice la parola stessa, lavoriamo sull'entroterra, l'entroterra che non è solo montagna, è quel luogo che magari è rimasto fuori dalle rotte turistiche o commerciali e che ha un grande spirito di rinascita e di rivalutazione. Noi con la nostra idea è che lì utilizziamo la cultura per riattivare e creare un boosting proprio di questi processi. La cultura è uno strumento potentissimo, perché è che in Italia a volte tendiamo un po' a dimenticarcelo, ma può avere delle ricadute non solo economiche, che sono quelle chiaramente più evidenti: metti un artista importante in un luogo, arrivano le persone che mangiano e dormono, c'è una ricaduta diretta, ma proprio una ricaduta sociale forte sul territorio, sia sulle persone che ci abitano, sia nell'incontro con le persone che arrivano, con gli artisti, col fermento culturale che si crea. E questo è proprio un punto nodale proprio della sostenibilità, perché sostenibilità non è solo ambiente, ma è un insieme di attività che su un territorio vengono attivate e che portano benessere. Grazie. Grazie a voi. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima m'hai lasciato. E resto qui distrutto, disperato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. E salirò, salirò, salirò, salirò, fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, salirò, salirò, salirò, fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un bambino. Lontano. Piano piano dalla base tra le rose lentamente risalire. Prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi amore, in fondo non c'è niente da rifare. Invece in giù di così non si poteva andare, in basso di così c'è solo da scavare. Per riprendermi, per riprendermi ci vuole un arcano a motore. Salirò, salirò, tra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, e salirò, oh. Penso ancora a te ne quando, ma provando e riprovando. Salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un puntino lontano. Bertinoro, serata indimenticabile. Grazie Sergio, sì, ricordo molto bene. Allora, a tale proposito, è un mercoledì, tieniti libero per il 31 agosto perché torniamo, c'è detta Bertinoro, passeggiate nelle vie che sono assolutamente molto suggestive. Prima però, o dopo, vediamo un po' come ci organizziamo, ho messo colonna sonora adeguata a questa presentazione. Il 31 agosto, Daniele Silvestri. Sarà bellissimo cantare le sue canzoni assieme, Sergio. Gran pazienza, Sergio, perché lui sa cantare. Io no, però accetta, diciamo così. Si sente notevolmente la differenza tra i due. Grazie intanto per condividere questa colazione e queste emozioni al 333-180-9494. Sì, abbiamo veramente diversi luoghi. Ad esempio il comune di Canossa, il Festival dei Borghi di Canossa, i castelli della zona di Canossa sono una meraviglia assoluta. E beh, direi che la colonna sonora di Carlo Maver è particolarmente adatta e suggestiva per momenti veramente molto belli tra musica e ambiente particolare, bellissimo. Aggiungo anche le collaborazioni, le intersezioni che ci sono anche con Entroterre per quanto riguarda delle partnership per la città di Bologna, è quella con i 300 scalini e il Teatro dei Mignoli, di cui abbiamo già dato presentazione. Grazie Anna Cesari, redattrice di Radio Città Fujiko, per la culturale. Rientriamo e avremo modo di procedere anche con un'altra rassegna che seguiamo da sempre con il Breakfast Club. È arrivata la quinta edizione, In mezzo scorre il fiume, che ha delle particolarità riguardanti l'attualità e con la nostra città che Anna ha saputo sottolineare. Ascolteremo tra poco, dopo la pubblicità, ovviamente con commento musicale intervallato, gli spazi di intervista e dialogo con Luisa Cottifogli, che oltre che essere artista protagonista ne è anche direttrice artistica. In mezzo scorre il fiume, quinta edizione. A tra poco.